4 mattino. Io ho un ragazzo di 17 anni con un deficit cognitivo, non le nascondo che lasciarlo a casa in questi giorni è stato difficile ed è difficile tuttora. Io ho deciso di continuare a lavorare, sebbene lui abbia appunto questa disabilità e ho anche una mamma invalida, perché sono un'infermiera e credo che il mio posto in questo momento sia quello di stare in ospedale mentre mio marito e l'altra mia figlia si occupano di loro. Ma è assurdo, che cos'è questa storia che i bambini con un genitore possono andare a giocare adesso? Non è questo il momento. Buongiorno, siamo arrivati al picco e diminuiscono i contagiati perché non si fanno più i tamponi. Questa notte alle 2 ho cercato di compilare la domanda per le 600 euro alle partite IVA. Dal modulo si evince che l'IBAN lo deve mettere la banca con firma e timbro del funzionario della banca. Cioè, in poche parole, non mi hanno fatto andare avanti. Ma questi sono matti? Perché poi ci sono le norme e poi c'è l'applicazione italiana delle norme, no? Quindi pagine e pagine di circolari dell'INPS per spiegare come bisogna fare. Il punto è che ci vogliono cose semplici adesso, semplici. Bisogna semplificare la vita alle persone, rendergliela più facile, che già è abbastanza difficile così in questo momento. E si facciano dei server decenti, perché continuano ad arrivarci dei messaggi di persone che dicono il sito dell'INPS è intasato. Fatevi dei server decenti, organizzate meglio fate un 5 siti mirror nei quali la gente può andare a fare queste stesse richieste, no? Anche perché, tra l'altro, non si è capito esattamente questo. Per gli autonomi che devono fare richiesta per questi 600 euro, non c'è un click day propriamente detto, va bene? Però in realtà non si sa se si esauriranno i fondi oppure no. E quindi bisogna fare teoricamente un po' rapidamente. Sull'altra questione, no, non, la circolare del Viminale non dice che si può andare a giocare con i figli. Dice che si può fare una passeggiatina con i figli. È chiaro che qualcuno la interpreterà in maniera molto più lasca questa norma, questa circolare del Viminale. E di qui la denuncia di alcuni presidenti di regione, di alcune regioni, a partire dalla Lombardia, ma passando anche per la regione Campania, con De Luca, è stato molto duro su questo tema. La sensazione, sulla questione dei tamponi, l'ascoltatore sulla questione dei tamponi, no, non si stanno facendo meno tamponi. La sensazione, io ve la butto là, è che tra la circolare del Viminale e il direttore dell'Istituto Superiore di Sanità che dice che siamo arrivati a un plateau, a un picco che poi sarà il plateau, ecco, scatti negli italiani un po' troppo relax su questo fronte, perché le cose che hanno funzionato fino adesso e che ci hanno consentito di arrivare appunto al picco, se veramente siamo al picco, sono esattamente lo stop il più possibile ai movimenti e il distanziamento sociale. Il rischio di mandare un messaggio sbagliato su questo fronte è abbastanza forte. Facciamo attenzione. Sempre 349-238-6666 per i messaggi su WhatsApp, soprattutto audio, soprattutto la vostra voce. E la pagina Facebook, non ve l'ho ricordato prima, ma lo sapete, c'è la pagina Facebook di 24 mattino, insomma, foste a casa e non sapeste esattamente, voleste anche vederci, siamo qua, in diretta su Facebook. Siamo nella seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:22 minuti e 34 secondi, è mercoledì 1 aprile e iniziamo come sempre dando prima di tutto un'occhiata ai titoli principali dei giornali. Inizierei da un titolo economico, quello del Sole 24 Ore, che ci racconta proprio un po' nel dettaglio quelle che sono le misure prese e la corsa agli aiuti, e questo è il titolo, per 18 milioni di persone, una platea di circa 18 milioni di persone interessata dalle misure contenute nel decreto di aprile. Il titolo a centropagina è ovviamente dedicato a Confindustria, che ha fornito i dati ieri sulle previsioni per quanto riguarda l'economia italiana: un PIL in calo del 6%, gli investimenti in caduta del 10,6%, e tutta una serie di articoli dedicati esattamente alle questioni economiche, dal progetto per l'industria di Paolo Bricco al riaprire, che secondo Giovanni Tamburi è un dovere civile. Gli altri titoli: il virus ha raggiunto il picco, è il titolo del Messaggero, come si diceva la chiave di lettura è un po' questa, virus ora stiamo al picco, è il titolo del Corriere della Sera. La Stampa anche qua sceglie l'economia, Conte soldi a imprese e a chi non ce la fa, il Quotidiano Nazionale, il picco è arrivato, la cura forse. Il Giornale, anche qua l'aspetto economico, allarme stipendi è il titolo del Giornale, boccia agli industriali, pagate dipendenti e fornitori. Libero sul governo, la resa del Conte, Lombardia e Veneto in rivolta, Fontana si fa l'ospedale da solo, Zaia vara il piano per tornare alla normalità, e ci arriveremo a questo piano di Zaia, anche se la voce l'abbiamo sentita prima. Però c'è qualche articolo di Giornale dedicato, a partire dall'apertura del Gazzettino, il Giornale del Nord-Est, che titola proprio, insomma, una sorta di patente, su questa sorta di patente di immunità. Conte denunciato per disastro è il titolo della Verità. Alcuni avvocati imputano a lui e ai ministri Lamorgese e Speranza di non aver preso le misure adeguate a contenere il Covid-19. Mercanti in fiera è il titolo del Fatto Quotidiano sull'ospedale realizzato appunto in fiera. A Milano il governatore inaugura l'ospedale accusando Conte, che replica materiali inviati da Roma, quindi anche su questo si alimenta uno scontro tra le regioni e l'esecutivo, non il primo e non sarà l'ultimo, fidatevi. Il Manifesto ha un titolo dedicato al tema della riapertura, la folle corsa, gli industriali non demordono, stimano il crollo del PIL e contro il parere delle istituzioni sanitarie dettano l'agenda al governo per riaprire in fretta le fabbriche, scrive il Manifesto. La sponda di Renzi, ma Palazzo Chigi per ora non cede. Adesso arrivano i nostri, il titolo di Avvenire, grazie a donazioni e impegno, nuovi posti letto in intensiva a Milano, Roma, Bergamo e in Puglia. Non vi ho dato ancora il titolo di apertura della Repubblica perché è il primo articolo dal quale voglio partire ed è la beffa delle mascherine, vicenda tipicamente italiana. In parte ci siamo andati nei giorni scorsi, con il pezzo, lo ricorderete, lunedì di Milena Gabanelli e Simona Ravizza sul Corriere della Sera, su come funziona questa vicenda delle mascherine e perché non riusciamo né a produrle né a importarle. L'autarchia che non funziona, il titolo del pezzo firmato da Giuliano Foschini, Marco Mensurati e Fabio Tonacci. Cosa succede? Succede che su questo fronte, come ben sappiamo, c'è un problema fortissimo di burocrazia. Per quanto il governo e il decreto abbia previsto una riduzione della burocrazia, quantomeno per le mascherine chirurgiche, insomma, qualche problema c'è. Si è generata una gran confusione, raccontano. Per mettere questo tipo di prodotto sul mercato non serve alcuna validazione da parte dell'INAIL e dell'Istituto Superiore di Sanità, che sono gli enti individuati dal decreto Cura Italia. Basta un'autocertificazione nella quale si dice che non arrecano danno alla salute. Eppure gli uffici vuoti dell'INAIL, perché il 90% dei dipendenti sta lavorando in smart working, sono subissati di domande di artigiani che propongono le simil chirurgiche e chiedono un timbro inesistente. Arrivano in media 150 PEC al giorno, con i mittenti più vari tra chi ha progetti seri e chi pensa di proteggere la gente dal Covid con stoffe di reggiseno o collant. Basta non rispondere alla mail, si dirà sbagliato, perché sono istanze inviate tramite posta certificata e quindi per legge devono avere risposta. E dunque si va e si concedono in parte almeno queste autorizzazioni, non tutte. Nel frattempo si verifica uno stallo all'INAIL per le mascherine, quelle un po' più professionali, le famose FFP1, le FFP2, FFP3, quelle più adatte appunto a fermare il virus. Esemplare è la storia di Attilio Posa, imprenditore pugliese nel campo dell'abbigliamento sportivo. Sentito l'allarme del governo sulla mancanza di mascherine, Posa decide di provare a convertire. Gli avevano detto che bastava un'autocertificazione e invece, per decreto, racconta, le mascherine devono essere prodotte con tessuto biocompatibile, traspirante e filtrante. Quello perfetto è il Melt Brown. Peccato che sul mercato sia diventato quasi introvabile. Si può provare con altri materiali, ma devono essere certificati. E certificarli costa tra i 5 e i 7 mila euro. Così capite che ovviamente si incasina tutto e tutto diventa molto più difficile. La questione della sottovalutazione del numero dei morti. Beh, ne abbiamo parlato poco fa e ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, però fateci tornare sul tema delle residenze per anziani, perché la mia impressione è che su questo non ci si sia mossi con la dovuta rapidità e con la dovuta attenzione. Il Corriere della Sera torna su un caso emblematico, che è quello di Mediglia, e siamo nel milanese. Il focolaio di Mediglia è stato il primo esploso nelle residenze sanitarie per anziani. Per darvi un numero, i residenti nella residenza di Mediglia, le persone nella residenza di Mediglia erano 150 gli ospiti, 62 morti in meno di un mese, Parliamo di quasi la metà degli ospiti della residenza per anziani che sono morti. I casi iniziali risalgono al 4 marzo, quando la direzione sanitaria della RSA ha comunicato la positività di due anziani. Tre giorni dopo erano già 40 tra pazienti e operatori, ma nel frattempo i morti erano già diventati 5, poche ore dopo 20. Lo racconta il sindaco di Mediglia, Paolo Bianchi, che lo ha scoperto guardando i dati dell'anagrafe, e quei decessi che crescevano di giorno in giorno, sempre allo stesso indirizzo. Siamo una cittadina di 12.000 abitanti, abbiamo avuto 69 vittime per Covid-19, 62 tutte in via Michelangelo 9. È un dato enorme. La strage nelle case di riposo, che viene certificata anche dallo stesso Istituto Superiore di Sanità, lo racconta La Stampa a pagina 7, e i numeri sono questi. Un'indagine fatta su 19.500 residenti delle residenze per anziani oggetto dell'indagine. I morti accertati per Covid negli ultimi due mesi sono solo 57, ma a questi se ne aggiungono 666 con sintomi simili influenzali, e almeno la metà di loro, secondo i ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità, potrebbero aver perso la vita per colpa del virus. E dunque la stima sale ulteriormente. Perché? Perché gli ospiti delle residenze per anziani sono 300.000 e i ricercatori dell'Istituto Superiore stimano almeno 3.000 morti, perché sono tutti residenti che poi hanno una media di età intorno agli 85 anni. Vi volevo recuperare adesso, se lo ritrovo, come si sta lavorando. Lo trovate sul Quotidiano Nazionale. Adesso vedo un attimo se riesco a recuperare la pagina. Se non riesco a recuperare la pagina, ve lo riassumo io. Il fatto che da questo punto di vista, alla fine, la regione Toscana e la regione Emilia-Romagna hanno deciso di muoversi. In sostanza hanno stabilito che proprio nelle residenze per anziani si partirà con una sequenza di tamponi a tappeto, a partire ovviamente dal personale che ci lavora, passando poi naturalmente per gli stessi anziani, per avere un quadro più preciso della situazione. Le questioni che hanno a che fare con le rivolte, poi, beh, ci sono anche queste, no? C'è un dossier dell'intelligence, ci racconta il Messaggero a pagina 11, che parla degli agitatori sociali sul web che vogliono creare disordini. Avevamo raccontato di quello, insomma, che stava succedendo, che stava per succedere appunto a Palermo. C'è un gruppo che si chiama Rivoluzione Nazionale, quello che ha tentato di coinvolgere nell'assalto a un supermercato di Palermo centinaia di persone. È successo in Sicilia, ma la protesta è montata anche nel resto del paese, alimentata da fasce di ultradestra e da organizzazioni criminali, tanto che le forze dell'ordine sono state costrette a effettuare dei presidi davanti ai negozi di alimentari. La nuova peste che ha colpito il mondo intero, racconta Cristiana Mangani a pagina 11 del Messaggero, ha visto crescere giorno dopo giorno le fake news. Il fenomeno ha preoccupato gli 007 e anche il COPASIR, che è sceso in campo per tentare un'analisi della situazione. Il presidente Raffaele Volpi conferma: l'Italia è uno dei target di questa infodemia, che può essere ricondotta a entità statuali esterne. Altri invece, a differenza di Volpi, sono convinti che chi stia soffiando sul fuoco non sono appunto entità statuali esterne, ma entità interne, come per esempio appunto l'ultradestra. Abbiamo affrontato, e lo trovate un po' su tutti i giornali, l'avete sentito anche nella controcopertina di GR24, il tema delle donne che rischiano di subire violenze, si trovano in casa con i loro aguzzini. Ebbene, ampie pagine in queste ore, partendo dal caso della studentessa di medicina uccisa dal suo compagno, Lorena 40, 27 anni, uccisa da Antonio De Pace, appunto. De Pace poi avrebbe tentato il suicidio. Chiaro che, insomma, è una violenza di genere, è femminicidio, è un femminicidio nel quale entra in gioco, secondo alcuni esperti, per carità, e qua insomma prendiamo dai giornali, anche alimentato, per così dire, ulteriormente anche dalla quarantena. C'è un tema di allontanare le donne dai violenti, le leggi ci sono, dice l'avvocato Teresa Manente, penalista esperta nella difesa dei diritti delle donne, a pagina 27 del Corriere della Sera. È un tema destinato a rimanere, almeno nelle prossime settimane, e sul quale presumibilmente dovrà essere aperta una discussione. Così come, e qua chiudiamo, andrà aperta una discussione su quello che è successo a Bari, perché teoricamente la legge prevede che i padri separati o le madri separate possano vedere i figli, insomma, quando sono affidati all'altro genitore. Ebbene, il Tribunale di Bari ha deciso che no. Le visite padre-figli sono sospese fino a quando non sarà cessata l'emergenza epidemiologica in atto, coincidente con il momento nel quale sarà consentito al padre di potersi muovere liberamente per raggiungere i figli senza pericoli per la loro salute, la salute dei bambini. Lo ha stabilito il Tribunale di Bari nell'ambito di una causa di separazione. Chiaro che non fa giurisprudenza, perché insomma non esiste in questo paese questo concetto, e però potrebbe essere un segnale, una pausa. Mattino. Caro Paolo Mieli, caro direttore, buongiorno. Eccoci qua. Allora, con te partirei oggi dalle questioni economiche, che tengono dentro tanti elementi. Abbiamo tantissimi ascoltatori che ci stanno scrivendo e dicono che da questa mattina tentano di accedere al sito dell'INPS per fare domanda per il contributo da lavoratori autonomi, e sono letteralmente disperati perché è tutto intasato. Mandateci le vostre testimonianze al 349-238-6666 via WhatsApp audio. Sole 24 Ore apre ovviamente con il tema degli aiuti, no? Gli aiuti per 18 milioni di persone in arrivo, ma poi insomma c'è tutta una parte centrale dedicata alle previsioni di Confindustria, che sono estremamente preoccupanti, no? Sì, ho letto un articolo di Nicoletta Picchio a pagina 5 del Sole 24 Ore, su appunto queste previsioni del centro studi nell'ipotesi di ripartenza a fine maggio. Questa è l'ipotesi. Confindustria: il PIL scenderà del 6%, investimenti a meno 10,6%. Cioè, è uno studio di Confindustria che già ieri sera ha messo in agitazione il mondo che dibatte di queste cose, che si preoccupa per il dopo crisi, perché, come ha detto ieri il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia presentando questo rapporto, noi abbiamo davanti due guerre, una al virus e una alla recessione. Dobbiamo evitare che si trasformi in depressione, cioè una recessione strutturale. Cioè, noi stiamo combattendo una guerra su due fronti, quella al virus. Tutti i giornali stamattina aprono: il virus ha raggiunto il picco, sì. Qualcuno lo chiama plateau, perché non è un picco, è una cosa, una situazione un po' stabile per alcuni giorni, che rischia di darci anche qualche sorpresa. Picco è quello in cui l'indomani comincia la discesa. Ecco, sì. Qua non siamo ancora l'indomani, siamo ancora su una pianura molto alta, dove forse da domani comincerà la discesa, anche se alcuni segnali, per fortuna, soprattutto in Lombardia alcuni segnali di inizio della discesa si vedono. Sì, soprattutto dal lato dei ricoveri, soprattutto dei ricoveri in terapia intensiva, quelli sono i segnali migliori. Come sappiamo, quello dei ricoveri, cioè quello che ha provocato il marasma dei giorni scorsi, è che il sistema dei ricoveri a terapia intensiva non era adeguato, non era preparato all'arrivo di centinaia, migliaia di pazienti. Se è risolto il problema sui ricoveri a terapia intensiva, ci troviamo in una situazione come quella della Germania, potremmo trovarci come quella della Germania, che era più preparata di noi, infatti ha un numero di morti molto più basso di quello che abbiamo noi paesi latini, cioè l'Italia, la Spagna, adesso la Francia e anche, dobbiamo dire, alcuni paesi imprevidenti come la Gran Bretagna. Sì. Dicevo di questa posizione di Boccia e della Confindustria, ovviamente il giornale più antagonista è il Manifesto, sì, che la chiama la folle corsa, dice gli industriali non demordono, stimano il crollo del PIL e contro il parere delle istituzioni sanitarie dettano l'agenda al governo per riaprire in fretta le fabbriche. Sì. Secondo il Manifesto Matteo Renzi fa da sponda a questo disegno, ma Palazzo Chigi per ora non cede e Conte dice nessuna certezza, deciderà il comitato tecnico scientifico. Per la verità non è vero che Boccia non abbia tenuto in conto queste cose, dice qualcosa d'altro, quello che dice anche Montezemolo in un'intervista a Repubblica, dice mentre affrontiamo la fase più importante di questa lotta sanitaria prepariamoci, chiariamoci le idee in modo che nel momento in cui vedremo la discesa, sarà certa la discesa dei ricoveri, beh, in quel momento noi potremmo decidere, esatto, a cosa riaprire, dove, in che luoghi, eccetera, eccetera. Insomma, no, è un soprattutto. Mi è piaciuto il fatto che Boccia abbia preso spunto dal presidente di Confindustria di Bergamo, Stefano Scaglia, perché l'uomo che si è trovato nell'epicentro, l'uomo che per gli industriali si è trovato nell'epicentro della crisi, ed è stato lui a dettare la linea. Questo modo di citare Scaglia è anche non solo un omaggio all'uomo che si è trovato in maggiori difficoltà, ma è anche un omaggio alla capacità degli industriali di cercare di immaginare il futuro. Immaginare il futuro, perché non stiamo, le decisioni vengono prese in altra sede, qui la Confindustria preme soltanto per avere un quadro chiaro di come dove, e quel quadro chiunque legge i giornali di oggi è molto confuso. È molto confuso. Allora, facciamo una cosa, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, così vediamo anche di capire se c'è traffico e quindi se la gente si muove ancora troppo, e poi ci ritroviamo e sul tema del riaprire, non riaprire, c'è una discussione politica abbastanza accesa tra governo e regioni, con alcune idee, tra cui quella del presidente veneto Luca Zaia, De Luca e Fontana contro Conte. Sentiamo il traffico intanto. Mattino. Tutto tranquillo sulle strade, a quanto pare bene così, e veniamo alla politica, che è una politica che però ha a che fare ovviamente sempre col tema del lockdown, del quando riaprire, del come muoversi. Ieri l'ordinanza del Ministero dell'Interno, che o meglio il chiarimento, di fatto è un chiarimento, no, su quello che si può fare e quello che non si può fare. Si può corricchiare intorno a casa, si può portare a spasso il proprio figlio, e le regioni protestano vibratamente tanto dal centrodestra quanto dal centrosinistra. Sì, tra le regioni che protestano, cioè la Lombardia, come ovvio, perché è quella sul fronte principale, ma c'è anche la Campania. Perché protestano? Non tanto, la misura è ovvia, forse non c'è neanche bisogno di fare una misura per dire che uno può scendere sotto casa col figlio piccolo e portarlo a fare un giro dell'isolato, ma temono queste regioni che l'idea di, forse anche già si vedono persone che fanno una corsa, fanno dei runners sotto casa, insomma quelli che lo fanno intorno, anche quelli all'isolato, ma c'è l'idea che insomma dopo Pasqua sarà risolto tutto e che quindi già adesso, prima di Pasqua, si possa fare qualche cosetta, violare. E loro dicono, ma come, noi stiamo ancora in alto sul plateau, il sud, tra l'altro ci sono moltissimi rapporti sul fatto che adesso è il sud che rischia di più, perché ci sono questi focolai negli ospizi per anziani. Insomma, se noi diamo un segnale che è iniziata la smobilitazione, stiamo facendo un errore, e i toni, devo dire, sono molto duri. Sono duri contro il ministro Lamorgese, sono duri contro il Presidente del Consiglio, e c'è una polemica a fianco alle polemiche di cui parlavamo prima, quelle sulle misure economiche, e questa polemica è molto forte. Però adesso diamo delle notizie anche sì, di carattere ottimistico. A Milano è stato aperto quel famoso mega ospedale che doveva essere sovrinteso, anzi è stato sovrinteso da Bertolaso, si è pure ricoverato. I giornali, soprattutto il giornale, esultano, lo danno come prova della capacità del Nord di organizzarsi da solo, e fanno anche una polemica sì, sul fatto che gli annunci promessi poi non sono arrivati. E a questa polemica, scusami se ti leggo, ma è molte le cose sui giornali, certo, si unisce una grande polemica di Repubblica, la beffa delle mascherine. Sì, sì, ne abbiamo letto sì, nella prima parte della rassegna stampa, Paolo, insomma, sì, c'è questa polemica, tra l'altro con un'intervista ad Arcuri, la persona che dovrebbe curare l'approvvigionamento di queste stesse mascherine. Volevo segnalare, tra l'altro, agli ascoltatori, non so se l'hai notato, Paolo, è a pagina 15 della Repubblica, che insieme al famoso ospedale Sprint varato in Lombardia, che va detto, e lo ricordiamo ancora una volta perché questo è un altro spunto interessante, c'è quello di Bergamo. C'è quello di Bergamo, sì, no? Battuta Wuhan, 8 giorni per costruire i reparti voluti dagli alpini, eh? Bergamo e gli alpini, è una seconda volta dopo la citazione del capo di Confindustria di Bergamo. La reattività di Bergamo stupisce molto i giornali, stupisce in positivo, sì, stiamo dando le notizie in positivo, ma anche la cosa di cui parlavamo. E diremmo ai nostri amici bergamaschi, stupisce chi non conosce Bergamo. Ecco, mettiamola così, questa capacità di reazione giusta, della città. Giusta correzione. Ovviamente non ci si riesce a dimenticare dalle polemiche di ieri. Una delle cose che devo osservare è che questa crisi mondiale, perché basta tenere un occhio fisso, io consiglierei ai lettori italiani di tenere sempre un occhio fisso a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, perché poi quello sarà l'epicentro del marasma nel mese di aprile. Dicevo, loro sono, chi polemizzava con Salvini continua a polemizzare con Salvini, chi polemizzava con Conte continua a polemizzare con Conte, più o meno usando gli stessi argomenti. E il Fatto Quotidiano tiene il mirino contro questi governatori del nord, li chiama fin dalla prima Fontana e ci si fanno belli con gli aiuti del governo, mercanti in fiera. A Milano il governatore inaugura l'ospedale accusando Conte e il governo, che replicano materiali inviati da Roma. Loro sostengono che questi materiali li hanno visti relativamente, non li hanno visti del tutto, e questo, insomma, il picco della malattia è stato raggiunto, ma quel picco di scavallamento delle mentalità, quello non è stato raggiunto. Cioè, in America gli stati democratici fanno blocco con quelli repubblicani, in fondo danno un vantaggio a Trump, perché lì c'è sempre la campagna elettorale, che in Italia non si vede. Cioè, in Italia chi odiava Renzi continua a mettere Renzi nei suoi, cosa, chi odiava Salvini idem con patate, e ripeto, chi odia il governo, forse sarebbe il caso che venisse raggiunto il picco, si scavallasse e il paese si unisse davvero, perché l'emergenza non è finita. Quello che è chiaro Vorrei notare una cosa, sì. Ci sono molte interviste ancora ai virologi e sì. Tutti i virologi, attenti, non state anticipando troppo i tempi, forse sarà sì. Perché complice sì. La Pasqua. Sì, che poi lo chiariamo perché c'è un'ascoltatrice, un ascoltatore che ci scrive, dice insomma questa polemica sulla passeggiata dei bimbi, ma li avete dei bambini? Io sì, o meglio due ormai sono adolescenti, uno è un po' più piccolo, lo so perfettamente cosa vuol dire avere dei bambini in casa e non poter uscire. Il tema è semplicemente che la somma delle notizie, da una parte queste dichiarazioni dell'Istituto Superiore di Sanità che dice abbiamo raggiunto il picco, siamo in prossimità del picco e quindi insomma tra poco inizierà la discesa, e dall'altra parte l'ordinanza del Ministero che sembra allentare alcune regole che avevamo date per assodate, ebbene questo doppio elemento rischia di creare un effetto negativo, che è il fatto che la gente sia un po' più rilassata e poi si metta per strada anche un po' casualmente, dicendo tanto ormai è finita. Ed è la preoccupazione dei governatori, a partire da De Luca, passando per Fontana, no? Il tema sì, è questo, cioè non è la passeggiata con i bambini l'oggetto della questione. Fammi dire anche una cosa, che sui giornali spuntano notizie quella, ma molto drammatiche, sulla morte di giovanissimi. Uno è morto in California perché non poteva avere il servizio medico, un ragazzo italiano di 19 anni è morto a Londra e gli italiani dicono se fosse da noi sarebbe vivo. In Belgio è morta una bambina di 12 anni. Cioè, è vero, il tasso di mortalità di questa malattia, di questo virus, colpisce soprattutto gli anziani. Però fulmina sempre più spesso, in sì. Una misura ridotta, ma fulmina dei giovani che non hanno molto ridotta, molto ridotta, diciamo. Molto ridotta, molto ridotta, sì, diciamo. Sotto l'1%, però... un minimo di attenzione bisogna metterci. Un minimo di attenzione bisogna metterci, e poi soprattutto questo ci insegna che di questo virus ancora sappiamo troppo poco, perché sì. Potrebbe anche darsi che gli anziani siano i primi caduti perché erano più deboli e più esposti, ma poi ci sia una forma aggressiva. Confermato però che colpisce molto meno, nella dimensione di un rapporto 70-30, le donne, quindi è una forma di selezione a vantaggio delle donne. E se vuoi chiudiamo anche facendo sì. Un omaggio a questa forza delle donne che finalmente sì. Il coronavirus sì. Ha trovato una barriera quasi imbattibile. Sì. L'ultima, un paio di ultime cose volevo segnalare. La prima è, come già dicevo agli ascoltatori, l'apertura del Gazzettino, che è il giornale del Nord-Est, quindi anche del Veneto, è dedicata esattamente a questo, ma un pezzo lo trovate anche sul Corriere della Sera. Il tema è come si sta muovendo il Veneto, che in questi giorni, caro Paolo, mi sembra evitare accuratamente le polemiche, Luca Zaia, cioè si sta muovendo in piena autonomia cercando di evitare le polemiche, e in quest'ambito ha deciso di far partire 700.000 analisi sierologiche. Di questo tema ci eravamo già occupati in passato, ed è anche perché, diciamolo, quello delle analisi sierologiche è domani. Il tampone, che è stata la parola magica del mese di marzo, cederà il passo alle analisi sierologiche, che sono quelle che consentono di vedere se tu hai sviluppato gli anticorpi, certo. Perché molti di noi, moltissimi di noi, sono stati toccati da questo morbo in forma lieve, hanno sviluppato gli anticorpi, e questi che hanno formato gli anticorpi può darsi che siano nell'ordine delle centinaia di migliaia o addirittura sì. Dei milioni, e può darsi che siano il nucleo di questa famosa sì. Immunità gregge. Sì, e quindi di fatto l'idea del Veneto è a un certo punto poter dare una sorta di patente di immunità per poter far tornare la gente in giro. I contagiati, dicevi, oggi c'è anche un bel pezzo sul Quotidiano Nazionale che parla, sulla base di uno studio dell'Imperial College, di forse 6 milioni addirittura di contagiati in Italia, cioè di persone che hanno già esatto. Avuto o hanno in corso il virus. Allora, grazie anche per oggi, Paolo Mieli. Ti ritroviamo ovviamente venerdì come sempre. Noi chiudiamo qua, andiamo a GR24. Ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella. Beh, torneremo a parlare di riapertura. Avremo Giovanni Cagnoli, presidente di Carisma SPA, che è stato tra i primi a proporre questa idea del ritorno al lavoro prima dei più giovani e poi dei più anziani. E poi avremo il presidente dell'ABI, dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, anche per insomma chiarire alcuni punti sul tema della liquidità alle imprese, alle famiglie e non solo. A tra poco.